chiedere perdono o confessare il peccato. Se un fratello offeso è più inespugnabile di una città, Proverbi 18.19, ancora di più lo è. Un'abitudine popolare millenaria, giusta o sbagliata che sia, essa sembra proprio inattaccabile da ogni pressione di cambiamento. Se questo è vero nel campo sociale, quanto più lo è nell'ambito religioso, dove il legame con la divinità può diventare più forte della stessa vita. È vero che si possono trovare eroi nella storia delle civiltà, ma è nell'ambito religioso che si contano i maggiori martiri. La differenza è enorme. Morire da eroi appaga e onora, ma morire da martiri è sempre umiliante, altrimenti non è più un martirio. Nonostante questo mastodontico ostacolo, è opportuno prendere in considerazione un'inclinazione e abitudine che si trova nel profondo di ogni essere umano. Per esaminarla alla luce delle scritture e eventualmente toglierla qualora non fosse conforme al volere del Dio delle scritture. Si tratta della pratica di chiedere perdono a Dio. Chiedere perdono a Dio è la normale conseguenza dell'aver acquisito coscienza della propria colpevolezza nei confronti della divinità che si invoca. Il sentirsi mancanti o colpevoli davanti alla divinità che si invoca è più che normale. Perché, per quanto un uomo possa avere un cammino retto, non potrà mai soddisfare le richieste di santità, volute dalla divinità nella quale si crede. Perciò, il minimo che possa fare chi trasgredisce la legge divina è chiedere perdono delle proprie colpe o trasgressioni. Ma, anche se è un'abitudine millenaria, è proprio giusto chiedere perdono. Prima di rispondere faccio un esempio. Dei tanti episodi concernenti il religiosissimo popolo di Israele, descritti nel secondo libro dei Re, mi ha sempre fatto effetto leggere ciò che ha fatto il re Ezechia, figlio di Ahaz. Così lo narra la Bibbia. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, secondo tutto ciò che aveva fatto Davide suo padre. Rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté la Sherah e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso, e lo chiamò Nehushtan, 2 Re 18:4. Nel testimoniare che il re Ezechia fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, la parola di Dio vuole dire che Ezechia non fece prima di tutto ciò che era giusto per il suo popolo e per la società, o ciò che era giusto per la cultura religiosa del momento, ma camminò secondo i comandamenti che Dio aveva dato migliaia di anni prima. Cosa fece di particolare? Innanzitutto mandò in frantumi le colonne sacre, le quali non erano altro che luoghi di culto illeciti perché rivolte ad altri dei. Poi abbatté l'Ashera, cioè distrusse una precisa divinità femminile, variamente nominata in riferimento, a tempi e luoghi diversi. Ma l'azione più straordinaria del re Ezechia consistette certamente nell'avere fatto a pezzi il serpente di bronzo costruito da Mosè quando il popolo di Israele era in viaggio verso la terra promessa. Se pensiamo che Mosè visse circa 1500 anni prima di Cristo e Ezechia regnò dal 728 al 686 prima di Cristo, significa che gli ebrei per circa 800 anni avevano offerto incenso al serpente di bronzo. 800 anni di culto ad un serpente non sono pochi, e a distruggere una simile abitudine religiosa così consolidata ci vuole del coraggio, molto coraggio. Chi infatti avrebbe osato astenersi dal venerare tale serpente non aveva forse guarito migliaia di persone nel deserto? Certo, tutti sapevano che non era stato il serpente a guarire dalla morte gli israeliti morsi dai serpenti. Ma poiché era stato il tramite per la loro guarigione, era ovvio che ad esso fosse dato un certo speciale onore. Non è vero, non tanto al serpente in sé, ma a quello che rappresentava. E poi, emaresi sentissi, l'aveva fatto Mosè. Così il popolo, di generazione in generazione, per centinaia e centinaia di anni, per pietà popolare, iniziò e continuò ad attribuire ad esso un culto speciale. Quello che il cattolicesimo chiama iperdulia, cioè il culto rivolto a Maria, la madre di Gesù e non di Dio, e offrire adesso incenso. Così chi manteneva la fede nel vero Dio Yahweh non veniva di certo meno nell'offrirgli il vero culto dovuto, ma nello stesso tempo poteva anche offrire un piccolo culto a chi aveva fatto tanto bene al popolo. Una cosa da non dimenticare, mi domando, è forse cambiato qualcosa dopo circa 3.000 anni? Nella nostra cultura popolare non si pone la fede nel vero Dio e, nello stesso tempo, si venerano e si offrono piccoli culti. Ricordo che il termine culto ha il significato di servizio a immagini rappresentanti degli esseri umani. È vero che non abbiamo delle rappresentazioni di animali, ma di persone umane. Non era forse il serpente la rappresentazione di un animale ordinato da Dio per essere guardato e trovarvi guarigione? Se la rappresentazione di un animale è sbagliata, perché Dio aveva ordinato di farlo? Evidentemente non lo era. Perciò l'errore non consisteva tanto nell'immagine che Dio aveva ordinato di fare, quanto nell'offrire ad esso un culto. Conclusione. Dio non ha vietato di fare una rappresentazione di cose che sono nei cieli, sulla terra o sotto la terra, perché le ha fatte fare anche nel suo tempio, ma ha ordinato di non offrire ad essi nessun culto. L'azione di Ezechia è stata veramente unica nel suo genere, perché ha annientata, meno una volta per sempre, meno un'abitudine religiosa che durava da quasi 1.000 anni. Che cosa ha a che fare il serpente di Mosè con il nostro studio riguardante l'eventualità di chiedere perdono o invece confessare semplicemente il peccato, per dimostrare quanto difficile sia abbandonare un'abitudine religiosa, la quale anche se millenaria dovrà comunque essere rifiutata? Qualora non sia giusta agli occhi di Dio, una cosa è certa, mi ci sono voluti molti anni prima di comprenderlo. Ma nella parola di Dio non è mai scritto che dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati. Sembra veramente un'assurdità per la nostra cultura, ma se esaminiamo attentamente il testo biblico, notiamo che tutti i credenti nel Dio Trino confessavano, sì, i peccati, ma non ne chiedevano perdono. Provare come un pugno nello stomaco davanti a questa verità è normale, e, a dire il vero, è successo anche a me. Un tema del genere ci porta subito a pensare a ciò che dice Giovanni nella sua prima lettera: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1, 8-9. Anche questa affermazione di Giovanni mette in evidenza che il credente non deve chiedere perdono dei propri peccati, ma solo CONFESSARLI. Tale atteggiamento fu assunto pure da Neemia e da coloro che si facevano battezzare da Giovanni il Battista. Neemia 1:6, Matteo 3:6. Così pure dai salmisti nelle loro preghiere. Salmo 38:18. Una volta ripresi da questo sconcerto, la domanda successiva è: ma perché non dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati? Non abbiamo forse sbagliato? È vero che siamo mancanti davanti a Dio? Ma se chiedo anche perdono del mio peccato, chi mi garantisce che Dio mi perdona? Lui non mi risponde direttamente dal cielo, come faccio allora a sapere che asseconda la mia richiesta di perdono? Non è forse questa una delle ragioni principali che inducono il credente cattolico a chiedere perdono e pietà in ogni funzione religiosa? Se lo chiede durante tutta la sua vita religiosa, significa che non ha la certezza del perdono dei suoi peccati, o sbaglio? Se fosse certo che Dio lo ha perdonato, non lo chiederebbe più. O sbaglio? Questa è una delle ragioni per cui non serve chiedere perdono a Dio dei propri peccati, perché non sai se te li perdona. Tu hai chiesto, ma lui non risponde. E se anche rispondesse che te li perdona, quale garanzia puoi avere che te li ha veramente Nuovo Testamento e perdonati? Il piano di Dio per rendere giusto un peccatore è un altro. Dio vuole che noi confessiamo le nostre colpe, e non che un vago senso di colpevolezza da noi nutrito ci induca a sentire il bisogno di chiedere perdono. Quando io chiedo perdono, non specifico dettagliatamente per quale colpa. Posso chiedere perdono per aver ucciso, ma non per aver rubato. Posso chiedere perdono per una menzogna, ma non perché mi rivolgo in preghiera a uomini o donne, invece che solo a Cristo Gesù e suo Padre. Se invece confesso le mie colpe nominandole una per una, allora prima di tutto sono consapevole della mia mancanza, e Dio sa cosa deve perdonare. Inoltre, chiedere solo perdono in modo vago non fa che uniformarmi alla massa peccatrice, senza che io ne sia umiliato più di tanto. Ma se davanti a Dio confesso un mio peccato preciso, questo diventa individuale e ha bisogno di un perdono altrettanto individuale. Sotto questo aspetto, il messaggio evangelico del cristianesimo possiede una nota degna di un'altra caratteristica unica. Quando si predica il Vangelo di Cristo, si invitano le persone a chiedere perdono dei propri peccati a Gesù Cristo. Un messaggio e un invito che non rende giustizia all'opera di Cristo e al piano eterno di Dio. In una cultura impregnata di cattolicesimo romano, invitare le persone a chiedere perdono dei propri peccati non li rende responsabili per essi, e quindi tale gesto altro non risulterebbe se non uno fra i tanti conformi alla loro religione. Inducendoli invece a confessare le loro colpe, li si porterebbe a fare ciò che è giusto agli occhi di Dio. In merito poi, al chiedere perdono, il puro Vangelo insegna che Dio ha già riconciliato l'uomo a Dio, non imputandogli i suoi errori, perciò non occorre più chiedere perdono. Ma è sufficiente accettare l'opera di Cristo, quale unica opera sufficiente per ottenere un totale perdono dei peccati passati, presenti e futuri. Chi ha posto fede in Cristo non chiede perdono dei peccati che ha commesso, che commette ogni giorno e che farà in futuro, perché non è più necessario. Quando peccherà si umilierà davanti a Dio per ciò che ha fatto o detto, confesserà i peccati e riprenderà il cammino cristiano con nuove forze tratte proprio dal perdono ottenuto. Del resto, per quanto riguarda Dio, i peccati degli uomini non sono un ostacolo. L'opera di Cristo ha tolto la separazione tra la creatura e il Creatore. Perciò, niente richiesta di perdono, ma solo confessione dei peccati. E poi, un'unica, incommensurabile, eterna gratitudine verso Dio, che rende gioiosa, abbondante e sempre più santa, Apocalisse 22:11, la vita terrena, il cammino verso il premio celeste, Apocalisse 22:12. Questo è il puro e spiazzante Vangelo. Maggio 2012. Ellero.